adesso che non segue, sì, e la nostra vita non è su questo, sono nuovi, sono che e già ne vorrei figurare di quando fai la tua cosa, cos'è? E poi andiamo a casa.